Quando è la finestra di noi stessi, dalla quale ci sporgiamo sempre, c'è l'infinito, velazione che spiazza e terrorizza. Siamo solo oggi in questi panni.